24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 28 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo giovedì 19 marzo. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando e non ci stanno più ascoltando magari alla guida, ma ci state ascoltando da casa ed è un cambiamento significativo, ma sono convinta che sai che sono convinta che ci stiano ascoltando perfino di più, chissà se è vero, vedremo nei prossimi mesi. Comunque ci possono raggiungere come sempre al 349-238-6666 per sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, lo diciamo sempre, fateci sentire la vostra voce che ci fa piacere, particolarmente in questi giorni, e l'800-24-00-24 per intervenire in diretta. Quadretto internazionale, Maria, direi sì, Germania, Francia e Gran Bretagna. Riprendere le parole, per cominciare, del nostro direttore Fabio Tamburini, quando ha detto ci vuole assolutamente una scossa, un piano Marshall, perché se no l'alternativa è cupa. Non voglio essere pessimista stamattina, e però guardate che il problema sarà europeo e questo peggiorerà ulteriormente le cose se non c'è la scossa dell'Europa. Ieri sera la ministra del lavoro Muriel Pénicaud ha ammesso che potrebbero essere 2 milioni i francesi che vanno in quello che a Parigi chiamano lo chômage partiel, cioè la disoccupazione parziale, e questa misura verrà già attuata da molte aziende già lunedì prossimo, tant'è vero che il Figaro apre proprio su questo e dice salariati e impiegati sono nella tempesta del coronavirus, perché da lunedì molte aziende attueranno questa disoccupazione parziale. Che i tempi del resto siano drammatici lo confermano le prime pagine dei quotidiani tedeschi. Ieri sera una grandissima parte dei tedeschi si è sintonizzata per vedere, per ascoltare quello che era una cosa unica nel genere, cioè il discorso alla nazione di Angela Merkel. Angela Merkel parla una volta solo l'anno, cioè nel discorso di Capodanno. Il fatto che abbia indirizzato un discorso durissimo, molto netto ai suoi connazionali, dà l'idea della severità della situazione. E anche le parole, e poi, anche le parole di Angela Merkel, certo, insomma, sono state toste oggettivamente. E anche in Gran Bretagna, Simone, il fatto che chiudano le scuole. E dice vabbè, l'hanno fatto in Francia, l'hanno fatto in Italia, l'hanno fatto in Spagna, che aspettavano loro. Beh, ma le scuole in Gran Bretagna sono una fonte di reddito enorme, perché buona parte della classe dirigente mondiale, cinese, indiana, manda i figli nelle scuole private britanniche, quindi chiuderle complicherà la situazione, perché poi è chiaro, no, che i genitori chiederanno indietro le rette. Insomma, non è solo un fatto di chiudere il sistema scolastico, che è già di per sé un messaggio severo, è anche un danno all'economia del paese. All'immagine di Boris Johnson, diciamo, anche perché è una svolta a 180 gradi. Un saluto a Lisa che è in fila al supermercato e ci ascolta, dice ce ne avrò almeno per mezz'ora. Speriamo che sia l'unica spesa della settimana. Sì, dimmi. Che andare al supermercato. Aspetta un attimo, Maria, aspetta, ti fermo solamente per questo, perché abbiamo un piccolo problema e vieni fuori come Max Headroom, per chi se lo ricorda, e vediamo un attimo se riusciamo a sistemare la cosa. Intanto salutiamo Alessio D'Amato, che è assessore alla sanità della Regione Lazio. D'Amato, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Come vanno le cose da voi? Siamo in guerra, combattiamo. Siete in guerra, e con che armi? Beh, noi abbiamo messo in campo 5 Covid hospital, circa 298 posti letto di terapia intensiva per il Covid e 1500 posti tra malattie infettive e pneumologia. L'andamento, come sapete, del virus qui a Roma, nella nostra regione, ha un trend inferiore al 20%, ma insomma ci aspettiamo che nei prossimi giorni ci sarà un lieve incremento. Un lieve incremento vi assessore, aspettate? Prego. Maria. Volevo chiederle una cosa che riguarda la tecnologia, perché mi incuriosisce molto come voi pensiate di controllare con una nuova app che mi pare sia stata appena introdotta nella vostra regione, controllare i malati che stanno a casa. Ci spiega, perché questo potrebbe essere di grande aiuto anche ad altre regioni italiane, evidentemente. Sì, noi abbiamo lavorato assieme alla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale nel creare questa app, uno strumento agile e semplice che mette in contatto il medico di medicina generale, il pediatra, con il proprio assistito che in questa fase sta in isolamento domiciliare. Consente di leggere alcune cose fondamentali, due volte al giorno la temperatura e per i casi più seri anche l'ossigeno nel sangue attraverso un pulsimetro che viene consegnato al cittadino. E per noi è un elemento molto importante perché attualmente in domiciliare abbiamo oltre 8.500 nostri concittadini che stanno, diciamo, in quarantena, per cui aver costruito in così poco tempo questo meccanismo di rapporto con i medici di medicina generale e i pediatri è un elemento assolutamente importante, scaricabile dal sito della regione. Stiamo aspettando che Google e anche la Apple ci mettano in condizione di scaricarlo sui loro store, è questione di ore e poi sarà, diciamo, ampiamente disponibile. E Amato, D'Amato, pensa, D'Amato, sì, pensa che si possa estendere questo sistema, dico, al di là dei malati di coronavirus. Adesso stiamo guardando all'emergenza, poi però insomma queste sono cose che alla fine rimangono, e il tema della telemedicina anche per offrire assistenza a pazienti che in questo momento, anche in questo momento, hanno altre patologie, non sono solamente malati, non sono solo affetti da coronavirus, insomma potrebbe essere utile. Sì, no, assolutamente utile. Il sistema sanitario, al di là di questa emergenza, deve fare i conti e dovrà sempre di più fare i conti con le malattie croniche, per cui il controllo a distanza di alcuni parametri vitali, se penso al diabete, al BPCO, allo scompenso cardiaco, alle terapie anticoagulanti, sono assolutamente importanti che vengano monitorate a distanza, e la tecnologia oggi ci consente di farlo e di ridurre anche le distanze fisiche, e per cui paradossalmente questa situazione di emergenza può dare uno scossone, accelerare dei processi che già lentamente erano in atto, per cui aumentare la velocità dei processi. Assessore, la Regione Lazio si è portata avanti col lavoro e avete messo da parte una serie di prodotti medicali che vi hanno consentito di, diciamo, di reggere il primo urto e di poter prevedere eventuali peggioramenti della situazione. Questo è successo perché siete stati i primi, in fondo, no, a sperimentare il coronavirus con i due coniugi cinesi che erano stati ricoverati allo Spallanzani. Sì. Di quanto questa vostra, diciamo, esperienza vi ha giovato? Quanto vi ha giovato e eventualmente qual è la fotografia del momento? Considerato che oltre allo Spallanzani e a Policlinico Gemelli adesso dovrebbe entrare in funzione, se lei ce lo conferma, anche il Forlanini, ospedale in completo abbandono che voi dovreste rimettere in funzione con 50 posti letto di terapia intensiva. Allora, per quanto riguarda i tempi, diciamo, i pazienti, in effetti io mi trovo proprio adesso, mentre sto parlando con voi, mi trovo allo Spallanzani. Noi abbiamo preso in carico i due pazienti cinesi che oramai risale a oltre un mese e mezzo fa, per cui questo ha allertato sicuramente il sistema e ci ha consentito di scendere in campo prima degli altri, anche, diciamo, di dotarci di strutture. Noi abbiamo creato 5 Covid hospital che sono appunto il potenziamento dello Spallanzani, la creazione del Columbus Gemelli, la creazione della Calcasal Palocco con 48 posti di terapia intensiva dedicati a Covid, e inoltre anche l'Istman e Tor Vergata con un'intera torre, per cui questo ci consente di avere 298 posti solo di terapia intensiva dedicati a Covid e oltre in tutta la regione 1.500 posti per quanto riguarda malattie infettive e pneumologia. Il tema del Forlanini non è all'ordine del giorno perché noi abbiamo bisogno di soluzioni rapide, in 7 giorni, non in 7 anni, per cui non è una questione che adesso sta nell'orizzonte del lavoro che stiamo conducendo. D'Amato, c'è una questione che sfiora la politica e che sta diventando un po' un tema di discussione e lo diventerà sicuramente al termine di questa emergenza, ed è come gestiscono la sanità le regioni e che cosa esattamente deve fare lo Stato, in particolare in una situazione come questa. Come lei saprà perfettamente, ci sono stati degli scontri sul tema degli approvvigionamenti di materiale, degli approvvigionamenti di risorse tra alcune regioni del nord e lo Stato centrale, tenute un po' sotto traccia in questa fase, anche giustamente, in una fase di emergenza, in una fase nella quale bisogna anche mostrare un certo livello di unità. Mi sembra che voi, ne parlava Maria Latella prima degli approvvigionamenti, abbiate provveduto bene, cioè avete partecipato a delle gare internazionali e non so se avete chiesto qualcosa alla Protezione Civile, ma non mi pare sotto questo aspetto. Ma guardi, noi, ripeto, stiamo in una situazione di guerra e non parlerò mai male diciamo di chi deve essere in questo momento il nostro alleato, per cui noi siamo solidali col sistema nazionale della Protezione Civile, con le altre regioni, in particolar modo con la Lombardia, abbiamo preso già diversi loro pazienti che abbiamo trasportato qui in elicottero da Monza, da Bergamo, da Brescia, perché c'è una situazione complicata. Dopodiché noi stiamo cercando di lavorare su più livelli, per cui l'importante è avere qui i dispositivi, poi da quale canale provengono ci interessa poco, se è Protezione Civile bene, se no partecipiamo. Però dico D'Amato, siete riusciti ad ottenerli questi dispositivi, no? Se non sbaglio, abbiamo le mascherine con una gara internazionale, no? Sì, esattamente, sì. Sì, abbiamo preso diversi milioni di pezzi che per noi sono importanti perché garantiscono la sicurezza innanzitutto dei nostri operatori e poi la tenuta del sistema. Quindi, per così dire, mi scusi, vado un po' brutale, sì. Io si può fare, sì, senza lo Stato centrale questa cosa qua? Ma guardi, io adesso non farò mai polemica e ripeto, diciamo, in questo momento siamo tutti concentrati a ottenere i migliori risultati possibili in una situazione veramente molto complicata. Del resto, insomma, in questo momento le polemiche sarebbero del tutto fuori luogo. Gli italiani, come dice oggi anche Ilvo Diamanti nel suo sondaggio, apprezzano il fatto che ci sia un lavoro collettivo e poco polemico. Volevo dirle, assessore, che un nostro ascoltatore dice: la app della Regione Lazio non funziona, ma lei ci ha detto che non è ancora entrata in funzione. Sì, è questione di ore, ripeto, diciamo, deve andare sulla App Store e anche su sia di Google che della Apple, per cui è questione di ore, però insomma oramai il sistema è diciamo ampiamente rodato. Ancora non c'è, però il sistema è rodato. Allora, grazie Alessio D'Amato. Grazie a voi, grazie. Assessore alla sanità della Regione Lazio, per essere stato con noi. Ci fermiamo, c'è la consueta pausa e poi parleremo con Paolo Ascerto, che è l'oncologo di Napoli, lo sapete, quello che ha iniziato a sperimentare qua in Italia quel farmaco contro l'artrite, e infine col viceministro dell'Interno Matteo Mauri sull'ipotesi di nuovi divieti. A tra poco. Mattino. Buongiorno dunque a Paolo Ascerto, direttore della struttura complessa Melanoma e Terapie Innovative dell'Istituto dei Tumori Pascale di Napoli, perché insomma sta partendo in quest'ora la sperimentazione a livello nazionale dopo che ci avete provato voi, Ascerto, no? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ci avete provato? Sì. In queste ore partirà la sperimentazione dopo tutto l'utilizzo che ne è stato fatto in maniera preliminare. Voglio dire anche che contemporaneamente la sperimentazione continuerà il trattamento cosiddetto off-label, per cui coloro che non dovessero entrare nella sperimentazione comunque potranno sempre farne richiesta all'azienda che lo darà gratuitamente. Maria, prego. Dottor Ascerto, si moltiplicano, no? In queste ore anche le ipotesi di altri strumenti che possano essere di aiuto nella cura. C'è chi all'Istituto di Marsiglia sperimenta la clorichina e le chiederò che cosa ne pensa. E poi c'è una azienda del Lazio, un'azienda che si chiama Takis, che dovrebbe varare i test per ottenere poi l'assenso del Ministero della Salute e questo, diciamo, ipotesi di vaccino per il Covid-19 potrebbe poi essere pronto, così si legge sul Messaggero, subito dopo l'estate. Le risulta? Le chiedo quindi cosa pensa delle misure che stanno provando a Marsiglia sulla clorichina e che cosa sa di questo eventuale vaccino italiano messo a punto da un'azienda del Lazio. Allora, per quanto riguarda l'idrossiclorochina, questa viene attualmente utilizzata nei pazienti con l'infezione da Covid-19 e con polmonite. È una cosa che hanno visto i cinesi, che loro hanno avuto ovviamente il problema prima di noi e quindi hanno dovuto mettere in piedi tutta una serie di situazioni per il trattamento dei pazienti. Quindi viene utilizzata attualmente perché avrebbe effettivamente questo effetto sia antinfiammatorio che antivirale. Quindi già viene utilizzata. Per quanto riguarda la Takis e il vaccino, io conosco molto bene questa azienda perché io nella mia vita tratto i tumori con l'immunoterapia ed è un'azienda che fa dei vaccini anche contro i tumori. Quindi quello che dicono è reale, ovviamente partirà una sperimentazione, si devono finire di testare alcune cose, ma un vaccino non sarà pronto prima di 10 mesi, un anno, quindi di sicuro non potrà essere pronto domani mattina. Nel frattempo con il tocilizumab, che invece è un farmaco che già era presente in commercio per il trattamento dell'artrite reumatoide e, voglio sottolinearlo, per il trattamento degli effetti collaterali di alcuni tipi di immunoterapia, tipo le CAR-T, in questo momento si va sulla complicanza, che è quella che sta mettendo un po' in ginocchio il Servizio Sanitario Nazionale. Di fatto, certo, per spiegarla semplice ai nostri ascoltatori, funziona come una sorta di antinfiammatorio, cioè riduce l'infiammazione, se ho capito bene, dei polmoni. La faccio proprio brutale, da uno che non ne capisce niente, ma ho capito bene? È così. Tenga presente che tecnicamente il tocilizumab è un immunosoppressore, agisce contro l'interleuchina 6. Che significa? Molti dicono, ma come? Noi utilizziamo contro il virus immunosoppressore, anche qui l'esperienza più grande ci viene dall'utilizzo di questo farmaco nella cura dei tumori con alcuni tipi di immunoterapia, come dicevo. Che cosa succede? Che quando noi stimoliamo molto le difese immunitarie, queste producono ovviamente tutta una serie di sostanze perché devono uccidere i tumori e queste sostanze danno anche effetti collaterali. In particolare questa interleuchina 6 dà un effetto collaterale molto simile, un distress respiratorio molto simile a quello che avviene nella polmonite di Covid-19. Perché? Perché anche lì c'è un eccesso di attivazione del sistema immunitario, quindi c'è di produzione anche di interleuchina 6 e per questo motivo il tocilizumab deve in qualche modo ridurre questa azione importante e controproducente in qualche parte del sistema immunitario, perché poi questo dà l'infiammazione degli alveoli polmonari e inizia a essere difficoltoso lo scambio di ossigeno. Questo è il principio di azione, niente di nuovo, è un uovo di Colombo come diciamo noi. E grazie al fatto che i cinesi l'avevano comunque utilizzato, loro hanno utilizzato solo 21 pazienti con risultati importanti, miglioramenti in 24-48 ore, questo è stato il processo che ci ha portato a trattare i primi pazienti. Dottore, so che in questo momento il pensiero di tutti va alla grandissima maggioranza, cioè quasi totalità di personale medico, infermieri che si sta prodigando senza sosta. E tra l'altro, appunto, l'applauso che è stato riservato a loro in Italia si è esteso come esempio anche in altri paesi e ieri l'hanno applauditi pure qua in Francia. Tra l'altro devo dire personale medico che in tutta Europa si sta dando un grande affare. Però c'è stato un caso che ha fatto un po' discutere ed è quello del Cardarelli di Napoli. Non abbiamo capito quanti fossero davvero i medici che si erano dati malati non essendolo e insomma la dimensione di questo caso, se è stata, come dire, una notizia pompata, e in questo caso sarebbe stato veramente molto poco opportuno pompare una falsa notizia, oppure se invece anche a lei risulta che ci fosse un numero notevole di sanitari che si era dato malato non essendolo. No, a me risulta che sia un fake addirittura, perché il Cardarelli è un ospedale che sta funzionando nella piena normalità, quindi non mi risulta. 249 medici, voglio dire, sarebbe tale per cui un ospedale non può funzionare, quindi sicuramente è un fake. Allora chiediamoci perché, secondo lei perché questa finta notizia è circolata? idea ma guardi, non ho idee, circolano tante notizie anche strambalate, per cui in questo momento, tra l'altro, un momento comunque, così difficile, bisognerebbe evitare. Comunque la direzione del Cardarelli ha smentito e qua stiamo, insomma, cioè la fonte ufficiale, ossia la direzione del Cardarelli ha smentito e qua stiamo, insomma, direi, tutto sommato. La ringrazio, grazie a Paolo Ascerto e buona, in bocca al lupo per il trattamento dei prossimi pazienti con questo metodo. Grazie Paolo Ascerto. In bocca al lupo, certo, però Simone... Bisogna chiedersi quanto senso di responsabilità ci sia nel comunicare notizie che proiettano un'ombra su medici che si stanno prodigando al massimo e noi giornalisti caschiamo nella trappola e diamo una falsa notizia proiettando un'ombra su un servizio che in questo momento è indispensabile. Io per prima da giornalista dico che prima di cascare nella falsa notizia dovremmo forse fare un triplice, quadruplice check della notizia stessa, come ci veniva insegnato dai nostri capi redattori molti anni fa, e invece corriamo dietro alla prima bufala. Grazie Paolo Ascerto, dunque buona giornata, buon lavoro. Ci sta dicendo crepi il lupo, lo abbiamo sentito, e salutiamo Matteo Mauri, vice ministro dell'interno, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti. Bloccherete le corsette? Guardi, si stanno valutando anche ulteriori restrizioni, ma in questo momento non si è ancora deciso. E il motivo per cui si sta valutando la cosa è che, purtroppo, per dirlo in modo semplice, non tutti hanno i comportamenti corretti, per cui c'è chi approfitta di alcune regole per affollare ancora alcune strade o per andare in giro per strada quando in realtà non avrebbe motivo. Perciò, se è possibile, non lo facciamo, se invece diventa necessario ci potrebbero essere altre forme di restringimento degli spazi a disposizione dei cittadini. Vice ministro Mauri, prima parlavamo con l'assessore alla sanità della Regione Lazio di una app che sta per entrare in funzione. Certo, la tecnologia in questo momento sta aiutando molto i governi, può avere anche i lati negativi di una restrizione dei diritti alla privacy ai quali ciascuno di noi tiene molto. Mi riferisco al fatto che molte aziende hanno già pronto delle app per tracciare in tempo reale i movimenti delle persone che sono positive al coronavirus. Il garante per la privacy, Antonello Soro, ha detto sì, vanno bene queste tecnologie purché siano proporzionate e limitate nel tempo. Lei che ne pensa? Io penso che si debba essere molto cauti, e cioè che l'emergenza debba farci mettere in campo tutti i possibili strumenti, anche le tecnologie, per riuscire a venire fuori il prima possibile da questa situazione, ma che il tema della libertà e del controllo di ognuno di noi è un tema delicatissimo per la libertà delle persone e per la democrazia. Perciò io credo che si debba seguire in modo molto molto rigoroso il suggerimento del presidente dell'Authority sulla privacy. Io su questo, tra l'altro, diciamo così, sono particolarmente sensibile. Io penso che la libertà debba essere sempre difesa e i primi a dover difendere la propria libertà siano i cittadini. In questo caso, per tornare al punto di prima, mettendo in atto comportamenti responsabili. Questo credo che ci debba essere un elemento di attenzione da parte di tutti, delle istituzioni e delle singole persone. Ascolti Mauri, a proposito di questo, la Regione Lombardia ha diffuso, come sa, quei dati sul 40% dei milanesi che sono, che ieri l'altro, erano ancora in giro sostanzialmente, stando alle rilevazioni fatte con le schede SIM, il GSM, quindi in realtà rilevazioni non abbastanza precise da poterlo dire con chiarezza. Su questo dobbiamo essere chiari dal punto di vista strettamente tecnologico. Però, insomma, del resto, se le aziende alimentari sono aperte, se i supermercati sono aperti, se le aziende di pulizia lavorano, se i servizi pubblici essenziali ci sono, è inevitabile che un certo numero di persone si muova. Se la spesa va fatta, se hai il cardiopatico che la passeggiata ogni giorno la deve fare, è un po' difficile chiudere tutto così. Beh, ma che ci sia un po' di movimento, questo è naturale ed è anche previsto. Il punto è che tutti questi movimenti devono essere fatti solo per necessità. Quello studio registra il fatto che ci sia stata un'impennata degli spostamenti tra domenica e lunedì, però questo, come dice anche lei, è abbastanza normale, nel senso che la maggior parte delle attività produttive che ancora funzionano la domenica sono chiuse e lunedì sono aperte e la gente ha più opportunità di uscire durante i giorni della settimana, ma se lo fa in sicurezza i rischi sono molto ridotti. Se invece si esce tre volte al giorno per andare al supermercato per comprare ogni volta una bottiglia di latte, cosa che succede soprattutto tra gli anziani, che tra l'altro sono le categorie più a rischio, questo non va bene, tant'è vero che alcuni esercenti hanno messo, anche con grande senso di responsabilità e di civismo, in atto alcuni meccanismi per impedire proprio questa cosa qua. Cioè, la questione che non è ancora passata fino in fondo, ma che in realtà tanti stanno rispettando, ma purtroppo non tutti, non abbastanza, è che gli spostamenti debbono essere limitati al massimo, per cui non vado a fare la spesa quattro volte alla settimana, ci vado una volta alla settimana e faccio la spesona grossa e magari non mi compro il bene deperibile in due giorni, ma mi compro dei prodotti a più lunga scadenza. Cioè, bisogna mettere in atto delle tattiche banali che ci permettono di stare fuori casa il meno possibile. Maria? Vede, Vice Ministro, per gli anziani credo che sia anche una questione psicologica. Se vivono da soli, magari con un coniuge che sta anche meno bene di loro, andare a fare la spesa significa scambiare anche solo un sorriso con la cassiera. Allora, mi chiedo, siccome questa nostra vita da reclusi durerà ancora, non neghiamolo, durerà ancora delle settimane, che cosa si può pensare per venire incontro ai più fragili, cioè agli anziani che vivono soli o con un coniuge e non possono vedere più nemmeno i nipotini, li vedono sullo schermo del cellulare e non vedono i figli? Ripeto, andare a fare la spesa è un elemento di conforto psicologico più che una necessità. Quindi forse dovremmo trovare un sistema per farli sentire meno soli? Comunicare per esempio che ci sono una serie di iniziative che pensano anche a loro attraverso le telefonate. L'aspetto psicologico credo che sia la seconda parte del problema. Ci stiamo pensando? Allora, quello che dice lei è assolutamente vero. Dopodiché è anche vero che gli anziani sono le persone più a rischio in assoluto e per cui sono quelli che devono mettere in campo dei comportamenti che sono ancora più rigorosi. Vi faccio il mio esempio personale. Io ho dovuto dire alle mie figlie e ai miei genitori che purtroppo per queste settimane non si possono vedere. E questo è un elemento di difficoltà sia per gli uni che per gli altri, però è assolutamente necessario, anche perché la trasmissione tra i giovani e gli anziani è una delle più pericolose, perché sta passando la falsa informazione che i giovani non si ammalano, per cui non prendono il virus, e gli anziani sì. Non è vero, il virus prende tutti allo stesso modo, giovani e anziani, solo che sui giovani spesso e volentieri non ha nemmeno un minimo di effetto, per cui i sintomi non ci sono, sono molto blandi. Sugli anziani sono devastanti, per cui il contatto bambini-nonni, per semplificare, è uno di quelli più pericolosi che ci sia, per cui su questo faccio un appello a tutti, ai genitori che magari non se la sentono di non mandare i figli dai nonni o dai nonni che, come dice lei, sentono insomma fortemente questa esigenza di avere un rapporto con i nipoti. Purtroppo questa cosa non si deve fare. L'aspetto psicologico, che purtroppo nei casi di emergenza arriva sempre dopo, no? È uno degli ultimi vagoni ad arrivare, invece è un tema molto importante ed è un tema che vale sugli anziani, ma vale anche per gli adolescenti e per i bambini. Su questo si sta iniziando a mettere in campo un po' di iniziative, magari iniziative private, che poi possono essere sostenute dal pubblico, per riuscire a interpretare questi momenti che obiettivamente sono molto diversi. I ragazzi, i ragazzini, gli adolescenti vivono molto male questa situazione. Adesso quelli che fanno magari le lezioni online a scuola riempiono di più il tempo e si tengono occupati, altrimenti è un po' complicato, perché tra l'altro in quella fase di crescita è tutto un pochino più difficile da gestire, lo sappiamo anche per la nostra esperienza personale, per cui qualcosa si sta facendo. Penso che su questo aspetto, come dice lei, si debba fare di più, cioè l'attenzione al corpo, per cui non uscite, non ammalatevi o vi curiamo, però anche l'attenzione alla mente. Questa è una situazione che noi non viviamo da quando? Dai tempi della guerra sostanzialmente, dal coprifuoco. È una condizione di paura generalizzata, per cui non è solamente la limitazione fisica, ma è anche quel tarlo che abbiamo nella testa giorno per giorno, tutto il giorno, tutta la settimana, da ormai tanto tempo, per cui c'è una paura di fondo, un allarme diffuso che stiamo interiorizzando anche quando non ce ne accorgiamo. Questo vale anche per gli adulti. Emanuele, dalla provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno, scusatemi, ma era un intervento poco opportuno. No, volevo solo far presente la giornata di oggi. Io sono un papà separato e non vedo i miei figli da un po' di giorni perché vivono, io sono a Brescia e i miei figli a Bergamo. Ecco, una giornata particolare dedicata un pochino anche a questo, ecco, anche per queste persone come me, papà, come tanti certo. genitori. Sì, sì. Emanuele, un abbraccio a lei papà. E a tutti quanti e in particolare ai papà separati. Ne abbiamo già parlato prima, ai padri separati, alle madri separate, insomma quelli che non, in questo momento non sono in grado e non hanno la possibilità di vedere i loro figli. Senta Mauri, c'è questa ipotesi che abbiamo letto in giro di accorciare i tempi di apertura dei supermercati e dei negozi di alimentari. È in gioco veramente oppure no? Ma questa è una delle misure a cui facevo riferimento prima, cioè possibili restrizioni ulteriori per limitare il contagio. La si sta valutando bene perché bisogna capire se la limitazione degli orari non possa portare a un aumento della concentrazione delle persone. Che è quello che è successo, mi scusi Mauri, in metropolitana a Milano nei giorni scorsi, cioè tu riduci le corse e quelli che devono andare in metropolitana prendono quelle poche corse che ci sono e le metropolitane si riempiono, un po' il rischio è quello con i supermercati, no? Stiamo valutando molto bene questa cosa qua, perché siccome il tema è la concentrazione di persone, il pericolo è quello, e per ciò l'impossibilità del rispetto della distanza di sicurezza, stiamo valutando quello, stiamo facendo gli studi approfonditi su questo, perché da un lato bisogna provare a dare respiro un po' anche a chi sta lavorando. Ma perché non incentivate l'apertura H24? Incentivate, dico, favorendo magari le assunzioni nei supermercati. Guarda, perché non è semplicissimo, diciamo così, da fare, anche perché comunque c'è una professionalità, evidentemente. Il punto è che chi lavora è in questo momento anche sotto stress, per cui noi parliamo spesso e giustamente di chi è in primissima linea, per esempio chi lavora negli ospedali, nelle strutture sanitarie, eccetera, ma c'è anche tanta altra gente che lavora a contatto con le persone, certo. È molto meno facile che siano malate, per amor del cielo, ma la cassiera, per capirci, del supermercato, che sono sotto uno stress molto, molto forte e che stanno dimostrando, fatemelo dire anche loro, un grande senso di dedizione e di disponibilità a tutti. Vice Ministro, secondo lei quello che è ormai anche una vulgata comune e vale a dire tanto le multe, se ce le fanno perché stiamo camminando per la strada senza una ragione o perché facciamo il barbecue in una scuola come è successo a Roma o perché insomma semplicemente non rispettiamo le regole che ci viene detto di rispettare in questa particolare emergenza, ecco, le multe non arriveranno mai perché figurati con tutto il lavoro che hanno da fare i magistrati se pensano a noi. Quanto è vera questa vulgata? No, ci pensano le forze dell'ordine e ci pensa la magistratura. Anzi, guardi, in realtà i dati sono molto significativi perché intanto sono state fermate più di 1.200.000 persone nel giro di poco più di una settimana, 1.200.000 persone, e circa 50.000 persone sono state controllate e non essendo in regola sono state denunciate. Stiamo parlando di denuncia penale. Poi alcune di queste hanno avuto anche la bella idea di dare delle false informazioni o sulle proprie generalità o sul motivo. E siccome si sono già fatti anche molto controlli ex post, si dice, cioè dopo, cioè tu mi dici che vai a lavorare, va bene, dammi riferimenti, vai, io controllo, non è vero perché tu non lavori lì o perché quell'azienda è chiusa, in quel caso il reato penale è ancora più pesante, può arrivare a diversi anni e verranno contestati a tutti. Poi io non sono contento se vengono denunciate le persone, però se denunciare le persone significa far capire a tutti che non stiamo scherzando, allora si fa anche quello. E le denunce sono già tante, sia a singoli cittadini che sono in giro senza motivo, sia anche in alcuni casi ad esercenti che non fanno rispettare le regole all'interno dei propri negozi. Si sta facendo a tappeto e sta dando, io credo, anche risultati molto consistenti. Grazie a Matteo Mauri, il vice ministro all'interno, per essere stato con noi. Poi sarà da vedere di questi 50.000 e passa denunciati, e diventeranno sempre di più, ma questa è una domanda per il ministro o per i sottosegretari alla giustizia. Come ti arrivano le tasse a distanza di 10 anni? Magari gli arriverà pure questa a distanza di 10 anni, ma lentamente arrivano. Sì, bisognerà vedere come finiranno i tribunali queste cose, perché sono tante, 50.000 denunce. Grazie a Mauri. Maria, ci sentiamo domani alle 8:20. A domani, ciao a tutti. E con tutti gli altri alle 6:30, ciao.